Ben ritrovati per una nuova puntata di Coccoli al Silicio, la credo forse 43esima, ma non sono troppo sicuro. Dopo qualche settimana di mancanza da questi microfoni di assenza per problemi essenzialmente di sovraccarico di impegni, è un periodaccio che vi devo dire. E torno contatto con un sacco di belle notizie nuove e fresche. E già lunedì scorso in realtà ero intenzionato a fare la puntata perché c'avevo tante cose da dire, però non ci sono riuscito alla fine e quindi mi si è accumulato un sacco di materiale. Questa puntata cercherò di essere veloce, ma ci saranno veramente tanti argomenti di cui parlare. Il primo, quello con cui vorrei aprire, è una notizia in realtà che avevo tenuto per la settimana scorsa, però è accaduto che in qualche mese, qualche anno fa, in realtà, o forse qualche no, qualche mese fa, ho sbagliato completamente, era qualche di anno fa l'antecedente, ma in realtà la notizia è di qualche mese fa. È successo come quando avevano bucato il sito di un noto sorta di utility per eliminare, diciamo, per ripulire il PC da file inutili, spyware, eccetera, che si chiamava CC Cleaner. Ebbene, questo era stato bucato qualche anno fa e gli era stata inserita una backdoor in modo che tutti quelli che scaricavano il software sostanzialmente si stavano anche installando una backdoor sulla macchina. Ecco, pare che sia successa questa cosa con gli update automatici anche di una nota marca di produttrice di schede, la Asus, che fa schede madri e varie altre cose e altra tecnologia legata ai computer. Ebbene, è successo che tra il giugno e il novembre 2018, ecco, ho ritrovato la data che non ricordavo, questa qui. Qualcuno ha bucato il loro, diciamo, i server che utilizzano per fare gli update e ha installato una backdoor diciamo, nei file che vengono scaricati nei firmware, negli aggiornamenti vari che vengono scaricati da questo repository. In questo modo voi avete in qualche modo aggiornato probabilmente il software della vostra Asus se l'avete scaricato, però con questo vi siete anche installati una bella backdoor. E, diciamo, sono i russi di Kaspersky Lab che ci informano di questa cosa. L'Asus l'ha resa pubblica solo il 31 gennaio, quindi un po' di mesi dopo che la cosa era accaduta. Pare che però appunto questo software malevolo fosse tarato per andare a colpire una lista di 600 MAC address ben precisi, quindi si presuppone un qualche attacco di quelli che vengono detti state sponsorized, cioè un attacco di qualche struttura di alto livello che con una diffusione di massa in realtà cercava poi di andare a colpire soltanto degli apparati ben precisi. È uscita anche la lista di questi 600 MAC address. Ora, io non ho avuto tempo di visionarla, quindi non vi so dire se ce ne fosse qualcuno particolarmente diciamo riconoscibile, no? I MAC address già dal Cioè, diciamo, portano alcune informazioni sul tipo di scheda, il produttore e così via. Ecco, quindi non so bene se qualcuno è stato poi riferito a qualcosa in particolare, però ecco, tant'è che questo scenario di attacco è particolarmente interessante, secondo me, perché si sposa bene con appunto le difficoltà che che un po' tutti i grossi stati incontrano nello spionaggio sull'internet, no? Nella sicurezza, nel controllo di internet legato appunto al diffuso ormai di uso della crittografia. Ecco, è uno dei modi abbastanza creativi per riuscire a controllare un device, visto che ormai diciamo, il controllare la parte che transita in rete è interessante, ma più per il controllo dei metadati, cioè vedere dove vanno questi pacchetti. Per l'analisi dei pacchetti stessi, invece, tutto diventa più complicato e quindi si è iniziato a spostare la propria attenzione sui singoli dispositivi, sullo smartphone, sul computer. Cioè, se non posso controllare quello che esce da quel computer, perché quando esce ormai è un flusso di informazioni difficilmente identificabili, allora farò il contrario, no? Proverò a collegare a co controllare direttamente il device. Ecco, questo metodo di controllo di diffusione, diciamo, di software atto a controllare un device, no? Cioè una sorta di Trojan che però è la cosa interessante è che si autoinstalla, cioè è un aggiornamento di un sistema cioè di una componente hardware che potrebbe anche andare da sola, cioè manco magari l'avete fatto e non l'avete neanche chiesto, ecco, e non ve ne siete neanche resi conto. E quindi secondo me era uno scenario abbastanza interessante di cui tenere conto, anche in luce della seconda notizia di cui parleremo tra poco, dopo che vi ho lasciato con un po' di musichina. E la seconda notizia affonda invece tra le cronache italiane di questi giorni. 4 giorni fa, infatti, un gruppo di persone che si occupano di sicurezza a fin di bene, cioè di analisi, diciamo, di malware, in particolare riferita molto spesso all'attività di attivisti di varia natura, hanno reso pubblico che hanno avuto occasione di studiare. Ecco, di studiare un malware tutto italiano che è stato identificato essenzialmente perché si diffondeva attraverso delle app nel Play Store di Google. Cioè, questa azienda produttrice del malware, che è stata ormai certamente identificata con la ISURV di Catanzaro e con una sua appendice anche romana che probabilmente ne curava il marketing, che si chiama, mi sembra, STM, ebbene, queste due aziende hanno lavorato in qualche modo nella produzione di un software, probabilmente sotto appalto, che poi rivendevano ed era in uso alle varie procure italiane. Se non che avevano pensato bene, non si sa bene se con il beneplacito di una procura o no, forse no, visto che ci sono altre procure, in particolare quella di Napoli, che ha aperto un'indagine a riguardo, però non si capisce bene perché, per diffondere questo Trojan, questa app malevola, no? Avevano fatto una serie di app diciamo, dal nome piuttosto insulso e dall'utilizzo piuttosto dubbio, cioè nel senso piuttosto, cioè dall'utilità piuttosto discutibile, ecco, di queste 10, cioè sono ve una ventina queste app, però di 10 ho anche il nome, che ho ritrovato in un articoletto online dopo un po' di ricerche. I nomi erano cose tipo assistenza linea, offerte speciali, offerte telefoniche personalizzate, servizi telefonici premium, offerte per te, assistenza linea reattiva, operatore Italia, prenotazione Promo offerte, assistenza SIM e offerte telefoniche per te. Ecco, queste sono le 10 che ho ritrovato negli articoli apparsi. Pare che ce ne fossero circa 25 comunque, però tutte di questo tenore. Probabilmente, io credo, perché venivano veicolate con, almeno io la butto lì, l'azzardo, poi magari non ci azzecco, però con la complicità di qualche operatore telefonico che appunto su ordine di una procura diceva, boh, crea un attimo un disservizio, no? Poi mandi un SMS al o un MMS o un messaggino, insomma, qualcosa all'utente che volevamo targetizzare in qualche modo e gli dici, allora, per riattivare il servizio usa questa app. Gli riattivi internet, gli fai scaricare l'app e a quel punto sblocchi la navigazione. E insieme installi anche il Trojan. No, vi dico uno scenario di questo tipo perché a me l'unico che mi viene in mente è per rendere credibile, diciamo, un'app di questo tipo. È uno scenario in cui l'operatore telefonico in qualche modo dovrebbe partecipare, anche perché era uno degli scenari che anche l'azienda milanese Hacking Team, che fu bucata qualche anno fa, no? In una famosa vicenda che poi portò tutto l'archivio mail di questa azienda su Wikileaks, dove ancora. Diciamo, ancora consultabile, ecco, mi ricordo che anche loro delineavano un tipo di scenario del loro malware di questo tipo, cioè con complicità dell'operatore telefonico, creare un disservizio per poi mandare un SMS all'utente nel quale lui doveva. Che implicava in questo, diciamo, in questo SMS oggi non ci riesco a parlare. Comunque, mandare un SMS all'utente il cui contenuto sostanzialmente guidava verso un link. E questo link veicolava l'installazione di un programma che sì, risolveva il problema, ma insieme installava anche un malware. Ecco, per questo mi figuro uno scenario del tutto simile. Vi dicevo appunto che la Procura di Napoli ha in realtà posto sotto, cioè ha scritto sequestro sui giornali, queste due aziende. In particolare avrà notificato, credo, un avviso di garanzia per indagini in corso relative a i reati di appunto intromissione in sistemi informatici, violazione della privacy o cose simili, ai responsabili di queste due strutture aziendali. E questo avviene appunto 4 giorni dopo che la notizia era stata diffusa dai media nazionali, appunto riprendendo questo paper tecnico in realtà che era stato rilasciato da Security No Borders e questo è il nome del team che ha rilasciato l'analisi, poi ve la metto anche sul blog. È un'analisi abbastanza interessante, nel senso che sono state prese queste app, e poi con l'aiuto in realtà di Google, a cui è stata appunto notificata questa cosa, si è riusciti a risalire ad alcune altre versioni di queste app che non erano offuscate, diciamo, in cui il codice quindi era più semplice da leggere, e quindi si è avuta le prime iniziali conferme che diciamo, il sospetto che fosse un'azienda italiana dietro a queste cose sì, ci sono state le prime verifiche, uno per il tipo di target, nel senso che i target sembrano quasi tutti italiani, due, nell'app si parlava spesso, i commenti erano spesso in italiano, in particolare molti erano riferibili a lessico dialettale, diciamo, in uso in quel della provincia di Catanzaro. Non è stato poi difficile risalire a una delle poche aziende del settore in loco, cosa che poi è stata confermata perché appunto il server a cui trasferivano il controllo del telefonino una volta installata l'app, quello che viene chiamato appunto canale di comando e controllo. Era appunto in uso a questa azienda del Catanzaro che si chiamava che si chiama eSURV, e che principalmente si occupa di videosorveglianza, però appunto aveva un appendice evidentemente di sviluppo di questi oggettini. E nella versione, la prima versione, questo server di comando e controllo risiedeva appunto vicino a delle altre macchine, vicino nel senso nel range DP, in uso a eSURV per il controllo dei sistemi di monitoraggio delle videocamere. E anche il certificato che utilizzava si riferiva appunto a questa azienda. Da lì è stato facile fare uno più uno. La procura comunque dopo 4 giorni, cosa ha pensato di fare? Ha probabilmente affrettato, se queste indagini erano veramente in corso, ma penso anche per prendere un po' la distanza e salvare la faccia, diciamo che dalla figuraccia internazionale, cioè nel momento in cui si è venuto a scoprire che appunto questa app, oltre a veicolarsi con dei metodi abbastanza dubbi, nel senso che mettersi su un Play Store, appunto, c'è una di queste app, sono tutte scaricate da un cazzo di nessuno, però una ci ha avuto 350 scaricamenti. Ora, 350 scaricamenti non sono tanto pochi, considerato che chi l'avrà installato avrà anche aperto il comando, diciamo, il canale di comando e controllo verso questa macchina, quindi tendenzialmente ha aperto il proprio telefonino a la signora azienda eSURV, che lavorava su mandato di una procura, cioè magari in indagine, che erano su mandato di una procura italiana. Quindi tendenzialmente, come side effect, si è avuto che magari riferito a un'indagine per cui l'eSURV era autorizzata a fare questo tipo di attività. Ah, questa cosa ha avuto come side effect che magari in quell'indagine sono finite intercettate un sacco di altre persone che non c'entravano niente. Io penso che la procura abbia avuto potuto mettere le mani avanti e dire: prima che ce la piglino con noi, buttiamo sostanzialmente davanti questa esurva, anzi, noi li sequestriamo tutto, diciamo che c'era un'indagine già in corso, che magari c'era, per carità, perché loro parlano di una che la procura di Benevento si era accorta sostanzialmente che questa serva utilizzava per SURV utilizzava per stoccare i file audio delle registrazioni una virtual machine su Amazon che era poi facilmente accessibile semplicemente prendendo login e password, però che chiaramente la procura aveva perché erano scritti sostanzialmente penso nel software che poi loro gli davano per accedere, che magari era solo un'interfaccia e faceva solo da front-end a questa roba. Accortisi che potevano arrivare direttamente, sono entrati e hanno visto che le registrazioni venivano stoccate, ma neanche divise per procura o per indagine, ma tutte assieme. E quindi che sostanzialmente la procura, in questo caso di Benevento, aveva accesso probabilmente anche a tutti gli altri file registrati per altre indagini. E questo in realtà avveniva però per chiunque potesse avere accesso a quella particolare VM senza nessun'altra forma di autenticazione, che è un metodo effettivamente di utilizzo un po' selvaggio del cloud, soprattutto riferito a delle cose che dovrebbero essere circostanziate e molto ben diciamo blindate su una singola indagine, cioè non è possibile che un singolo accesso io possa avere dati di tantissime altre indagini, perché questo crea degli evidenti problemi da un punto di vista anche poi diciamo della legittimità di questo tipo di acquisizione. Posto che a noi non ce ne frega quasi niente della legittimità di questo tipo di acquisizione, penso che per me è abbastanza allucinante anche solo pensare diciamo che questi marchi ingegni possono essere in qualche modo normati, nel senso che è abbastanza evidente che nel momento in cui sono sul tuo computer, sono sul tuo telefonino, è molto difficile che questa situazione venga ristretta a solo determinati utilizzi, no? Cioè, se io posso ascoltare l'audio e copiare i file e vedere la cronologia della navigazione, tutte queste cose qui all'interno di un'indagine, ma perché non lo dovrei fare? Cioè, nel senso, per quale motivo dovrei limitarmi a ascoltare l'audio o a fare solo una di queste cose se le posso avere tutte in toto? Soprattutto se si tratta di una fase istruttoria che poi magari non viene neanche riportata all'interno del tribunale, no? Quindi non dovrò mai spiegare che ho fatto tutte queste attività a nessuno, perché semplicemente non le cito tra le prove, o se le cito, magari uso delle formule di circostanza, tipo non lo so, prova acquisita in maniera stramba o anonima, una roba del genere. E di conseguenza, insomma, secondo me il terreno legale in questo senso è molto spinoso. Io non credo nella possibilità di normarlo efficacemente. Nessuno stato, penso, europeo ha una normativa decente a riguardo. Non so se qualcuno nel mondo ce l'abbia. Io penso di no, penso che le leggi in questo senso siano abbastanza tutte uguali. C'è chi sostiene che comunque all'interno di un quadro normativo sarebbe più facile muoversi rispetto a quello molto vago che c'è ora. Io non so se questa cosa è vera. In generale credo abbastanza di no, cioè penso che il problema esista a prescindere. Che sia qualcosa di veramente complesso da venirne a capo e che in parte forse non merita neanche spendere il proprio tempo nel farlo. E cioè non ha molto senso una critica magari della, solo della, del, de, de, della, dell'aspetto legale senza un inquadramento di quello che è il mondo attuale, cioè non è solo un tassello all'interno di un ampio quadro di controllo legato magari all'analisi commerciale dei miei comportamenti, e poi ce n'è uno che è più riferibile magari alla parte giudiziaria e via così, però è un quadro che nella sua complessità si delinea come abbastanza drammatico, ecco. E quindi niente, questa vicenda di Exodus è quindi giunta a questo step, nel senso che anche le due aziende che hanno prodotto il software sono in qualche modo ora coinvolte in un'indagine. Ah, perché mi ero dimenticato di dirvi, ecco, una cosa che ha fatto abbastanza scalpore, ma a me in realtà non mi ha colpito tantissimo, è che sostanzialmente questo software loro lasciavano alcune porte del telefonino aperte per mandare determinati tipi di servizi legati a intercettare del traffico specifico. Tipo, se io volevo intercettare il traffico fatto dall'applicativo Facebook, mi collegavo alla porta 6002 e davo un comando. Poi, che ne so, se volevo intercettare le chiamate su WhatsApp, allora mi collegavo alla porta 6004 e davo un altro comando. E avevano tutta questa serie di porte aperte, divise per servizio. Ora, per comodità, perché secondo me è solo una questione di comodità, loro semplicemente lasciavano queste porte bindate su quello che sono tutti gli indirizzi di una macchina. Cioè, io se ero nella stessa LAN del telefonino, quindi ad esempio se il telefonino era attaccato a un access point in qualche luogo pubblico e non faceva quell'access point quello che viene detto client isolation, cioè non isolava i singoli client, ma semplicemente uno stava attaccato tipo al bar che c'ha la connessione sfiga e non fa client isolation, e quindi se io mi attacco lì, tutti gli altri sono attaccati vicino a me, no? Se io vado a cercare quali sono i miei vicini e nello specifico vado a fare lo scanning delle porte di quel telefonino e nell'analisi hanno appunto riprodotto un Nmap di quel telefonino, si vede che ho la porta aperta e quella porta è bindata su tutte le connessioni, quindi io accedendo con l'IP che l'access point che non fa client isolation ha dato a quel particolare device su quella porta, e sapendo che comando dare, posso in qualche modo attivare l'intercettazione e scaricarmi che ne so, il risultato. Ad esempio, posso dire fammi uno screenshot e poi lui mi viene restituito lo screenshot, io me lo piglio, ringrazio e via così. Quindi, sostanzialmente, il telefonino è stato bucato e poi questi servizi che dovrebbero essere in uso alla sola procura che ha aperto un'indagine risultavano poi attivi a tutti quelli che sapevano cosa farne sostanzialmente e che erano in grado di fare, diciamo, di accedere al telefono in qualche modo. Queste comunicazioni, pare, almeno alcune, non venissero neppure cifrate e quindi il traffico era sostanzialmente in chiaro, non tutte, perché nel documento ho letto di roba cifrata, però comunque secondo me è poco importante nel momento in cui tanto è diciamo l'interfaccia di amministrazione accessibile, non mi frega niente di vedere la comunicazione cifrata, se tanto la stessa operazione me la posso rifare da solo e quindi anche se poi me l'avessi mandato il risultato cifrato cambiava veramente, veramente poco. Però vi dicevo appunto, a me questa cosa non mi ha stupito tanto, perché secondo me questa cosa di utilizzare tutte le interfacce disponibili per comodità è qualcosa che evidentemente non hanno pensato solo loro, perché era ad esempio uno dei bug che sono stati trovati in Ghidra, che è questo tool rilasciato dalla National Security Agency ormai da un mesetto, forse due. Un tool per fare reversing, aveva anche un modo per collegare una specie di syslog o comunque una specie di modalità di debug, diciamo ma che prendeva anche comandi però, quindi non era veramente, c'era più una modalità di controllo da remoto, diciamo, e aveva come impostazione di default di bindarlo su tutte le interfacce, no? Quindi se io avevo il mio computer in una LAN e stavo usando Ghidra, probabilmente la mia interfaccia di amministrazione era bindata su tutte le interfacce, quindi c'era qualcuno che poteva in qualche modo interagire con il mio debug. Non dico perché lo dovrei fare, non lo so, in effetti non è che sia una grossa problematica, però come approccio evidentemente questo di bindare le cose su tutte le interfacce è evidentemente un approccio comodo nello sviluppo anche di questi software che magari hanno più a che fare con delle tematiche. Uno direbbe, ah, ma allora l'avranno sviluppato con tutti i crismi. No, come spesso si dice, come abbiamo fatto notare ad esempio con il seminario tenuto per un pre-hack in quel di Ponte di Mezzo, la banalità del malware, era proprio la tesi, è che spesso questi software sostano un sacco di soldi a chi li paga, che principalmente sono gli stati, nello specifico lo Stato italiano, con le tasse che paghiamo pure noi, e fatemi lamentare di questa cosa. E nello specifico nei giornali si legge di appunto una tranche di più, quasi 300.000 euro pagata a questa azienda, che non sono pochi, considerato che il software sì, avrà fatto anche quello che però era scritto veramente maluccio, ecco. Non è che io se invece era scritto bene ero più contento di dargli 300.000 euro, però comunque 300.000 euro per una cosa scritta anche male mi sento un po' preso più in giro, ecco, insomma. Cioè, poi in realtà mi fa ridere, non mi sento tanto preso in giro, però così. Forse anche per questo poi la Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta e ha detto, vabbè, ma allora ci avete truffato? Ma? Che ne so io. E niente, poi vi metto sul blog qualche notizia a riguardo, la smetto di parlare, adesso vi lascio con un po' di musica, intanto che mi preparo la prossima notizia. Vi avevo annunciato che questa sarà una puntata fiume, ho dato un sacco di materiale. Women leave their men, and no one knows. If you were in my situation, what'd you do? Knowing that your love swung on you. Tell me why, oh why, did you leave me? I'll never know. No. Yeah. E E visto che abbiamo parlato finora di oggetti come gli smartphone, ora voglio parlare di quegli altri oggetti che vanno un sacco di moda, che sono le cose cosiddette IoT, l'Internet of Things, cioè quelle cose che rendono smart la vostra vita, cioè rendono essenzialmente cose che non servono quasi mai a niente di particolarmente utile, però diciamo che collegano in rete cose per fare poi cose che magari non ci servono a niente. Ebbene, c'era un po' di tempo fa una grossa botnet fatta con un tool che si chiamava Mirai e le persone che avevano realizzato questa botnet che portava dei devastanti attacchi di tipo DDoS e appunto l'avevano pensata per andare a avere come target principale origine degli attacchi, appunto degli attacchi DOS, tante piccole scatoline, robe di IoT, essenzialmente contando sul fatto che quegli oggetti spesso hanno software embedded scritto tendenzialmente male, con interfacce grafiche a cui nessuno cambia mai via web, a cui magari nessuno cambia le password, essenzialmente perché non si ha la dimensione che quell'oggetto che io metto dentro casa in realtà magari poi è collegato a internet con la wifi e quindi è raggiungibile e io lo po cioè, ci posso arrivare e farci cose. Uno spesso attacca magari il sensore della temperatura è quello che ne so, è la smart TV è tutta sta robe strambe insomma che ci sono non è detto che pensi anche a che questo è un oggetto sicuro perché viene percepito più come un'estensione dell'elettrodomestico ecco e quindi che ne so se avete preso la lavatrice smart e non avete pensato che quell'estensione dell'elettrodomestico diventa poi di fatto parte della vostra rete, in qualche modo diventa parte della superficie d'attacco e avete fatto male i vostri conti essenzialmente. Comunque questo tool, questo Mirai, a un certo punto è diventato disponibile il codice sorgente, che è ancora disponibile. Io ho guardato, lo trovate, se cercate un pochino su GitHub. Ecco, il fatto che ci fosse il codice sorgente, ha fatto sì che fosse, che venisse poi ripreso, sviluppato da altri e ne sono uscite alcune varianti. Una in particolare pare che sostanzialmente abbia aggiunto all'incirca 27 exploit, no, 27 erano quelli totali, quindi hanno aggiunto comunque degli exploit a quelli già esistenti, in particolare alcune cose, ce n'è una per televisori dell'LG, vi dicevo, poi ci sono un po' di cose per i router della Linksys, per i router della ZTE, per i D-Link, ci sono un po' di cose per i SAS, tipo network storage device vari, ci sono un po' di cose per l'IP camera, insomma una piccola collezione di exploit per robe IoT che tenta di installarsi e replicarsi. Quindi la cosa appunto caratteristica è quando ne trova uno ne cerca degli altri e li fa partecipi di questa grossa botnet che è una variante di questa Mirai che quindi ha 2 anni o a 3 insomma dal suo smantellamento ancora continua a far parlare di sé. Ci tenevo insomma a dirvi anche questa cosina perché tracciava bene la dimensione. Siamo partiti da un attacco probabilmente state sponsorized come si dice a addirittura un'infrastruttura come la Asus, andando a colpire appunto i repository con gli update per aggiungere agli update una piccola backdoor. E poi abbiamo parlato di un altro attacco, anche questo in qualche modo finanziato da uno Stato, quello italiano, che però probabilmente se ne laverà le mani dando la colpa all'azienda che l'ha sviluppato e che però aveva interessato circa un migliaio di smartphone, forse meno, si parla meno di, in realtà di un migliaio. Google ha detto sotto le 1.000 persone, però comunque non è meno grave la cosa perché è andata a impattare solo su poche persone. E poi siamo arrivati appunto a parlare da, appunto passando da hardware vario dell'Asus a gli smartphone a l'IoT. E con questo abbiamo coperto praticamente la maggior parte dell'informatica attuale e abbiamo sostanzialmente detto come nessun hardware è particolarmente affidabile e nessuno di questi oggetti può essere considerato vostro amichetto. Dovete sempre guardare un po' queste cose con una certa diffidenza. E con questa notizia vi lascio un altro po' di musichina, poi magari mi preparo con le ultime due, e poi chiudo questa lunghissimissimissimissima puntata. Morning madness come to my bed. Seems each day has a passing phase. Morning madness has me in a tase. Morning comes, I reach for the hill. All in a fine morning madness is Avevamo parlato, mi sembra, qualche mese fa, o forse no, non me lo ricordo, però io ne avevo letto di una vulnerabilità che interessava WinRAR. Era un Absolute Path Traversal, quindi una cosa abbastanza interessante perché sostanzialmente utilizzato insieme a un archivio ben predisposto, permetteva di andare a scrivere file di sistema o comunque file al di fuori dell'archivio. Il che è abbastanza problematico perché se io scompatto un file .zip che mi deve finire la mia home e quello mi scompatta il file che certamente io mi aspetterei poi di trovare, ma anche ad esempio aggiunge una riga a un autostart di qualche tipo che poi mi fa partire un daemon che lui mi nasconde in una directory che magari io non so neanche che c'era, ecco che automaticamente mi sono creato un problema. Tanto che appunto questo bug che non è facilmente patchabile perché WinRAR non ha un auto-update e quindi uno deve appositamente andare a dire: ah, allora voglio diciamo fare l'update della mia versione di WinRAR, altrimenti rimani con quella lì. E è stato utilizzato da una di quelle strutture di cui parlavamo anche prima, cioè di quegli state sponsorized actor di cui ogni tanto si sente parlare, anche definiti, spesso queste strutture sono anche definite come APT statali, cioè Advanced Persistent Threat gestiti da qualche stato. Ce n'è uno in particolare, l'APT-33, che pare essere riferibile al governo iraniano, che ha appunto fatto uso anche lui tra i vari strumenti che ha messo a punto di questo bug per WinRAR. E quindi niente, ci tenevo a dirvi che spesso qualche volta quando poi si parla di queste cose uno dice poi non le in realtà no, spesso vengono, cioè questi bug noti che uno dice ah paccialo perché poi qualcuno li usa davvero. Cioè, posto che a noi ci interessi, a me mi interessa di più raccontarvi le storie, però cioè, non fare il security evangelist, anche perché è una causa persa in partenza, però comunque mi interessava raccontarvi appunto che questo bug è poi finito utilizzato davvero da qualcuno e non è rimasto solo una roba un po' teorica. E con questo un altro po' di musica, dai, e poi l'ultimissima notizia, poi chiudo davvero che ho parlato già fin troppo. You've captured my heart and I love it. Can you see? No, I don't care. nobody but you. Nobody but you, baby. Ed eccoci qua. L'ultima notizia è un po' doverosa, nel senso che ha tenuto banco la settimana scorsa sulle vicende tecnicose l'approvazione della direttiva UE sul copyright e quindi brevemente ne volevo parlare. C'è grossa confusione ancora sotto il cielo, nel senso che come avviene per alcune votazioni europee, alcuni europarlamentari hanno fatto notare che avevano sbagliato a pigiare il pulsante, che è uno di quegli escamotage che uno però utilizza spesso per votare una cosa e poi quando gli dicono, un po' come in Italia quando c'era Berlusconi, che nessuno, tu richiedevi a tutti che ma tu hai votato Berlusconi? No, io no, non l'aveva votato nessuno, però questa elezione l'ha vinta. E uno degli escamotage che usano gli europarlamentari quando votano qualcosa che è in qualche modo impopolare è poi quello di dire, ma ho sbagliato a pigiare il pulsante, ho capito male, tanto poi non è che la votazione la rifanno, cioè nel senso che non importa, anche se uno può solo dire ho sbagliato, però cioè, così ti salvi la coscienza, cioè so che la gente ti dice vabbè sei un povero cretino, però tanto rimane. Quindi anche se con la consueta figura di merda che hanno sbagliato a votare, ecco, cioè che hanno sbagliato a pigiare il pulsante, però la legge è in qualche modo è passata. Ora, che significa questo? La cosa interessante è che nessuno l'ha ancora ben compreso, che la legge sembrava almeno una, o come l'hanno voluta fare apparire almeno, era una diatriba tra l'Europa e i grossi big del web per far valere i diritti dei produttori di contenuti. Ora, l'imbarazzo per me nel parlare di questa cosa è che effettivamente i grossi produttori, cioè i grossi big del web campano sui contenuti prodotti da altri spesso in maniera del tutto, diciamo, gratuita, nessuno riceve un compenso, nel senso che io posso inventarmi un modo per diventare ricco con i podcast, cioè con YouTube, è vero, però non è YouTube che mi paga direttamente, sono io che sfrutto la piattaforma e devo essere comunque io, cioè ci sta anche che comunque in termini squisitamente di quello che noi potremmo definire, secondo la propria analisi precisa marziana, il plusvalore, cioè si sta che in termini di plusvalore sia molto più quello che io porto di soldi a Google con diciamo la mia... il mio utilizzo di YouTube rispetto a quello che poi io ne ricavo, anche se sono uno YouTuber molto molto molto bravo e affermato, anche perché magari a me che sono bravo e affermato mi rientrano dei soldi, ma per tutti gli altri cretini che tentano di imitarmi sostanzialmente loro producono contenuti gratis, e in generale la maggior parte di queste piattaforme, da Facebook eccetera, è l'insieme di relazioni che noi gli regaliamo, quello è qualcosa che vale un sacco di soldi per loro, ma che non ci viene in alcun modo retribuito. A me non è che ti pagano per stare su Facebook, sei tu che scegli di starci. Più tempo ci stai, più in qualche modo Facebook guadagna su di te e più in qualche modo te non ricavi soldi in realtà da questa cosa. Però vabbè, e quindi posto che questo è vero, è comunque secondo me fastidiosissimo trovarsi nella posizione di dover dire o di dover difendere la libertà degli utenti di pubblicare su queste piattaforme, perché poi e purtroppo è questo che si è venuti, cioè che si è stati in qualche modo chiamati a fare, no? Nel senso che le grosse strutture tipo Wikipedia eccetera hanno fatto benissimo a scagliarsi contro questa legge, no? Però nel momento in cui in qualche modo ci hanno infilato, sembra un si sa, perché poi hanno fatto un gran casino anche lì di confusione, e lo sgamotto per non far rientrare, che ne so, Wikipedia o altre strutture che sarebbe stato troppo impopolare in qualche modo andare a sanzionare, per sanzionare poi alla fine, come dicevano loro, le grosse corporation, cioè non è che per per colpire Google puoi affondare Wikipedia, no? Cioè devi trovargli un salvagente da tirargli all'ultimo, che più o meno è quello che hanno tentato in maniera forse goffa di fare. Però è comunque fastidiosissimo pensare che salvate queste grosse cose, quello che rimane è soltanto una battaglia per la libertà d'espressione. Ma per la libertà d'espressione intesa come lasciare che gli utenti possano postare liberamente quello che vogliono su YouTube, Facebook, eccetera. Perché in qualche modo è come legare a doppio filo la libertà d'espressione ai colossi del web e dire se, non ci, cioè, se loro sono costretti a fare censura, viviamo in un web di censura. È come però dargli aver alzato le braccia e dire ok, il web è vostro. È sostanzialmente loro e io devo sostanzialmente difendere i loro interessi per arrivare a difendere anche i miei, che da loro, dal punto di vista delle corporation, è scacco matto, cioè sono stati geniali. Penso che sono stati in qualche modo geniali. Non perché sono un fan, infatti, della di non perché io sia un fan di questa legge. Il problema è che non ne vedo. In qualche modo ci dovrebbe essere una scappatoia critica a tutto questo, che si slega dalla mera prendere atto che la maggior parte del traffico lo fanno loro e quindi in qualche modo dobbiamo tutelare gli utenti dalla loro libertà di pubblicare su queste piattaforme. La libertà da cosa sarebbe poi messa in discussione? Probabilmente da questa roba dell'articolo sui filtri, no? Sul fatto che vorrebbero imporre di mettere dei fantomatici filtri che non si capisce bene in che modo potrebbero essere efficaci al 100% nel riconoscimento di materiale sotto copyright, però ammettiamo che lo siano. Questo dovrebbe essere una sorta di censura del materiale, nel senso che nel momento in cui io mi accorgo che il materiale è sotto copyright non lo pubblico e nel momento in cui non lo pubblico in qualche modo è necessariamente privo chi voleva metterlo della libertà di far circolare le cose su queste grosse piattaforme. In ultimo, questi filtri potrebbero anche essere in caso di appunto problemi veramente legali per queste grosse piattaforme, potrebbe diventare una roba ultra preventiva, no? Nel senso che potrebbero diventare talmente paranoici questi filtri da rendere difficile pubblicare qualsiasi cosa. Io non la vedo un'ipotesi probabile, perché mi sembra che questo sia sostanzialmente il collasso di queste grosse piattaforme, che però cioè, in qualche modo, cioè, se questi hanno tutto questo strapotere che noi gli diciamo di avere, mi sembra difficile che semplicemente accettino questa roba. Più probabilmente se ne fregheranno, ma in qualche modo anche la stessa legge sembra in qualche modo ribadire questo strapotere. Tanto che, cioè, quale strutture si possono permettere di avere veramente dei filtri così efficaci sull'upload? Cioè, soltanto le grosse strutture, perché comunque in termini di calcolo non è poco. Cioè, YouTube fa una specie di analisi di cosa carichi per vedere se è sottoposto a copyright. Ok? Però, a parte il fatto che molto spesso lo bypassi, infatti su YouTube è pieno di roba che semplicemente è lì e YouTube non si è accorto che è sottoposto a copyright, c'è tantissimo di questo materiale, quindi sto filtro o non viene veramente applicato sempre, oppure anche per mera convenienza, per avere più roba su YouTube, perché se nessuno poi lo guarda più. Comunque, oppure non è così intelligente, così efficace. Quello che è sicuro è che però in termini di risorse di calcolo non è una roba semplice. Cioè, non è che se io ho un sitarello un po' sfiga, anche di medie dimensioni, posso permettermi la stessa identica cosa, soprattutto su file molto grandi. Cioè, se parliamo di caricare un video di 700 mega, analizzare che non sia sottoposto a copyright, quante parti ne devo analizzare? Se no, capito, se io guardo solo il primo minuto e mezzo di video e io butto su le cose con un minuto e mezzo di vuoto e non ti accorgi di niente, no? Cioè, dovrò fare dell'analisi a campione. Questa analisi a campione devono vuol dire manipolare l'intero video. Cioè, non è così semplice pensare a dei filtri veramente funzionanti in questo senso. E comunque chi potrebbe farli? Soltanto i grossi soggetti. E quindi in qualche modo questa legge che dovrebbe difendere i produttori dai grossi soggetti, togliendo un po' di potere ai soggetti, a questi grossi soggetti, in realtà è come se ribadisse il ruolo di questi grossi soggetti, ma semplicemente dicesse: vabbè, però famo almeno 50-50, cioè ridacci un po' di soldi. E in questa diatriba continua è difficile schierarsi, perché dice: allora da che parte devo stare? Dalla parte della SIAE che vuol far pagare Facebook? No, già mai. Però allora da che parte devo stare? Dalla parte di Facebook che non vuol pagare la SIAE? Boh, già mai. E quindi da che parte sto? Cioè, come faccio ad appoggiare una campagna in questo senso? Cioè, che parte prendo? Cioè, non c'è una parte che sia stata interessante per me, perché quasi nessuna ribadiva in qualche modo il tentativo di riportare il problema sulla proprietà dei mezzi, cioè chi possiede questi mezzi di comunicazione? Cioè li possediamo noi? No. E allora perché io però devo lavorare per difendere la libertà di pubblicare su un mezzo di comunicazione che comunque è di una corporation che me schiaccia? Cioè non sono io che possiedo quella cosa, no? E quindi il problema potrebbe essere, cioè dovrebbe essere rimandato secondo me nel dire: ok, allora io voglio un web nel quale sono io per primo a reclamare la proprietà dei mezzi di comunicazione, delle strutture, e non io che imparo a usare le strutture che mi mettono a disposizione. E questo però è molto complicato, perché molto spesso magari, cioè una delle riflessioni che a me verrebbe da fare è che magari il web non è il protocollo giusto, l'HTTP, per fare questa cosa. Cioè, magari ce ne sono altri di più tecnicamente interessanti per poter fare una cosa di questo tipo, no? E quindi da qui si aprirebbe un più ampio dibattito su: ok, ma cosa è diventato il web in questi ultimi anni? Cioè, ce ne possiamo ancora fare qualcosa? Probabilmente sì, per carità. Però è cambiato. Cioè, uno deve prenderne atto del fatto che può anche darsi che sia diventato un terreno meno interessante. È difficile appiattire tutta la battaglia, secondo me, lì sopra, solo su questa cosa. E quindi niente, vedremo un po' come saranno gli sviluppi, perché non si è capito più niente, no? Nel senso che ci sono stati molti articoli prima, anche la stessa Electronic Frontier Foundation, che postava per mezzo di Cory Doctorow sul proprio blog praticamente un articolo al giorno per quasi una settimana prima della votazione, cioè prima del 21. E dopo il 21 però non ha più detto niente in realtà. E quindi non lo so, io sono carente di analisi, cioè vorrei che tutte quelle voci critiche che prima avevano detto delle cose, magari si stanno semplicemente organizzando e analizzando meglio il testo che è uscito fuori veramente, no? E vorrei capire se tutte quelle voci critiche, ora che è passato, che piano c'hanno e sono ancora critiche o è andata bene così. Cioè, nel senso che questi pseudo finti emendamenti che non si capisce, che avevano votato velocemente a settembre e che tentavano di salvare questo e quell'altro, eccetera, no? E ce l'hanno fatta, cioè è andata bene, oppure è andata male, cioè nel senso che è tutto passato senza modifiche. A me non è chiarissimo questo. E mi sembra che in generale non ci sia ancora una chiarezza d'analisi a riguardo, e quindi. Secondo me un po' tutti stanno aspettando che si chiarisca qualche stato, cioè che qualcuno inizi a mettere in atto questa direttiva e chieda a casa propria, dicendo a Google: oh, però c'è questa direttiva, tu adesso per postare nel mio paese e essere visibile all'interno del mio territorio devi fare questa cosa qua. E vedere come questi rispondono, perché magari ti danno picche e tutta sta direttiva rimane carta morta. Boh, non lo so. E quindi niente, ho scritto anche qualcosa al riguardo su il mio inutile blog coccolialsilicio.blogs.org. Penso che posterò anche altre cose nei prossimi giorni, se mi riesce di trovare il tempo per scrivere. Con questo vi saluto, perché vi ho annoiato a sufficienza. Ho fatto quasi un'ora questa volta, è stato lunghissimo. Ancora un po' di musichina e poi niente. Intanto vi do già la buonanotte, tanto non riprendo dopo la musica. Quando scende, poi parte la bobina.